tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta. Ti preferisco, sai. E con quel vestito mi fa impazzire. E non venirmi vicino, se no mi giro di scatto, quasi fossi un bambino, con la paura che tu possa leggermi in faccia, innamorato di te. E poi sei bella, Dio se sei bella, sei tanto bella, che neanche tu lo sai. Senza fili di padroni, gli occhi un poco lucidi, sei bella. Persa dietro a quegli occhiali, grandi e grossi come due fanali, gli occhi sempre lucidi, sei bella. Perché una donna, una donna, una donna così, forse in genere. Senti quello che dici, sembri proprio un'attrice. E tu nemmeno lo sai, che sei protagonista di tutti i gesti tuoi. Io che non so mai che fare, io che non so cosa dire, io che non sono un attore, ma che ci provo semmai, di stare nel tuo film, io non mi stancherei mai. E poi sei bella, Dio se sei bella, sei tanto bella.